c'erano già stati diversi documenti che lei aveva stilato in difesa dei diritti umani dei palestinesi, in difesa del processo internazionale in corso, perché Israele venga ritenuta responsabile di quello che sta facendo, che è una violazione continua, continuata e assolutamente indefessa e supportata dagli Stati Uniti e nella violazione, e anche dall'Europa, nella violazione dei diritti umani dei palestinesi e non solo, anche di altri popoli circostanti, insomma. Quello che lei ha messo in evidenza in questo rapporto è una lista di, quindi nomi e cognomi, di moltissime aziende che traggono profitto dall'occupazione e che magari uno non associa immediatamente con la Palestina, perché sono nomi che vediamo tutti i giorni, che anche noi utilizziamo tante volte, a partire da Amazon e ma tante altre realtà, quelli che affittano camere, Booking e compagnia. Siccome molte di queste sono anche americane, chiaramente il governo americano difende con i denti la propria economia, come abbiamo visto, anche e soprattutto le proprie multinazionali, da qualunque tipo di attacco che possa dare danno economico. In più difende ovviamente il suo proprio alleato cagnolino fedele, Israele, che è autorizzato a fare qualunque nefandezza, sempre sapendo che la farà franca. E quindi con questo modo assolutamente mafioso di delegittimare i tribunali che ti mettono sotto accusa, di delegittimare, e non è mai successo prima, i funzionari dell'ONU che fanno del lavoro di indagine e di ricerca molto accurato e molto documentato, si finisce per discreditare definitivamente il diritto internazionale, le organizzazioni internazionali che lo sostengono e che sono anche una emanazione dello stesso diritto, in maniera che poi resti solo esclusivamente il diritto del più forte e il diritto delle armi, che è quello che stanno facendo prevalere in questo momento. Quindi è molto grave questa cosa, ed è anche molto grave che anche in Italia ci siano tante complicità. Sono state segnalate, mi sembra, oltre 60 aziende in Italia che sono assolutamente complici, per cui il nostro lavoro come BDS aumenta, le nostre campagne dovrebbero essere decuplicate o di più. La cosa che invece ho notato, un po' con rammarico, è che non venga utilizzata la sigla BDS da Francesca, che poteva essere l'occasione anche per dire alla gente che cosa si può fare, perché oltre che denunciare, oltre che non acquistare da Amazon o da altre sigle o da altre marche che sono compromessi, anche organizzare la pressione pubblica, l'opinione pubblica nei confronti di tante aziende, ma anche di tante altre marchi o associazioni o gruppi che lavorano, può essere un'occasione per la gente, per noi tutti cittadini e consumatori, per organizzarci e fare delle campagne di boicottaggio efficaci che servano a mettere all'indice alcune aziende perché le altre poi ne vengano a vedere. Il funzionamento del boicottaggio è anche quello di colpirne simbolicamente alcune perché poi le altre rispettino i diritti che invece vengono violati. Io approfitto, insomma, di questa riflessione, visto che è proprio il vostro lavoro come campagna BDS, per chiederti come vengono individuate le complicità. Immagino che ci siano diversi livelli, no, di complicità, complicità diretta ma anche indiretta. Certo. Come funziona? Beh sì, noi abbiamo alcune indicazioni, le potete trovare direttamente sul sito bdsitalia.org. Le campagne vengono organizzate insieme al gruppo palestinese, che è il BNC, cioè il Comitato Nazionale di Boicottaggio, che è un po' la regia di tutte le iniziative di BDS in giro per il mondo. Naturalmente devono essere calate anche nella realtà in cui si lavora, per cui se da noi una certa ditta, impresa o marchio sono presenti e sono molto diffusi, è ovvio che da noi si parta su una certa campagna piuttosto che un'altra. Noi ad esempio, avete visto la campagna contro i prodotti israeliani nelle COP, questa è una campagna tutta italiana perché la COP è un marchio italiano, però vi sono delle campagne internazionali come ad esempio Teva in questo momento, oppure abbiamo fatto quella con AXA abbiamo fatto quella con Puma, e questi sono stati individuati a livello internazionale in quanto particolarmente esposte e anche sensibili dal punto di vista dei propri codici etici, perché noi ci rifacciamo spesso a quello che è il loro codice etico e vediamo in evidenza le contraddizioni interne che loro stessi hanno.